Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata da Valentina Furlanetto, bentornati ai Figli di Enea, anche questa sera puntata autoprodotta da casa, speriamo prima o poi anche Radio 24 di riuscire a produrre dalla redazione, ma continuiamo a raccontarvi storie di italiani che hanno radici altrove. Questa sera sono in collegamento con Padova e in particolare con Fidè Abuandia, benvenuta, buonasera. Buonasera. Fidè, lei è palestinese? Ci siamo sentite qualche anno fa per un libro che aveva pubblicato, Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese, che avevamo presentato nella trasmissione che allora conducevo e curavo, Indovina chi viene a cena. È una chef, una blogger, metà padovana, metà palestinese. E in questo momento è bloccata a Padova. Sì, sono a Padova dal 18 febbraio. Diciamo che sono bloccata per scelta. Ci racconti un po' com'è andata? Lei innanzitutto da dove proviene? Io sono a Hebron, una città palestinese credo che tanti conoscono, alla sua importanza, e poi per quanto riguarda il conflitto ha una situazione particolare perché è divisa tra Hebron 1 e Hebron 2, è una parte sotto l'occupazione israeliana, l'altra parte gestita dall'autorità nazionale palestinese. Sono cresciunata e cresciuta in quella città prima della divisione e dopo della divisione, e sempre nella parte più complicata della città, quella sud della città, che adesso si chiama H2, che è sotto occupazione israeliana tuttora. È una città divisa dal punto di vista amministrativo, rende la vita un po' più complicata, impegnativa, perché sei da una zona, però passi quella strada e diventi in un'altra zona, in un altro posto, dove anche le regole sono diverse. Ad esempio, io quando ero nell'H2 avevo la scuola in H1, a volte avevamo noi il coprifuoco, e dall'altra parte della città era tutto aperto e non c'era il coprifuoco, quindi a volte rischiavamo per andare a scuola. Raccontando una realtà che noi fino a poche settimane fa non conoscevamo e che adesso forse in parte conosciamo, con questi decreti che limitano le nostre libertà per motivi sanitari, che comprendiamo benissimo, però che in un certo senso ci ricordano un po' i blocchi che ci sono dalle vostre parti. Ovviamente le ragioni sono completamente diverse. Come si vive passando da un confine all'altro con i blocchi fra un'area e l'altra? Forse fra qualche giorno riusciremo a uscire di casa, ma non è detto che ci possiamo spostare in Europa come prima, spostare nel mondo come prima, spostare in Italia come prima. Sì, sono due cose molto diverse comunque. Anche stare in casa non è come stare in carcere. Come si vive adesso? Penso tanto alla Palestina, penso tanto ai posti di blocco, a tutti i confini, tutti i problemi che ho vissuto in Palestina o viaggiando. Ad esempio, mi è venuto tanto in mente, ma anche viaggiando al di fuori. Rembo ai puoi andare su, per favore, chiedere a nonna. Fide, come tutte noi, in questo momento sta cercando di dividersi fra il lavoro e il fatto di avere una figlia a casa. E anche questo parte della realtà di questo momento. Diceva, in questo momento sta pensando molto alla Palestina. Penso a momenti che abbiamo vissuto con i posti di blocco, con i confini, viaggiando. Mi ricordo che adesso ci vengono in mente poi anche un momento che guardiamo molto le foto, o perlomeno io con mia sorella, che abbiamo fatto tanti bei viaggi assieme. E guardiamo le foto dei nostri viaggi, le cose, e parliamo di questa, dei viaggi che abbiamo fatto. E le difficoltà anche ci vengono in mente. Ad esempio, quando abbiamo fatto scuola, finito scuola, abbiamo fatto un viaggio in Germania. Ci hanno dato il visto, tutto quanto. Avevamo 19 anni appena. Per viaggiare andare attraverso la Giordania, perché era all'inizio della seconda intifada, e non un attimo solo perché ho fatto una corsa. Ok, appena abbiamo finito la scuola, abbiamo fatto un viaggio in Germania, avevamo poco più di 19 anni forse. Per andare lì, era l'inizio della seconda intifada, e per andare lì non potevamo più viaggiare da El Ben Gurion, dovevamo viaggiare attraverso la Giordania. Lì al confine siamo rimasti 3 giorni bloccati finché abbiamo potuto entrare in Giordania. Quindi abbiamo perso il biglietto per andare in generale, però abbiamo continuato lo stesso nonostante tutto. Appena arrivati, dovevamo andare a Berlino, e a Francoforte ci hanno fermato e ci hanno chiesto, oltre al visto, tutto quanto, carte, tutti questi controlli, ma ci hanno chiesto quanti soldi avevamo, e ci hanno fatto vedere anche quanti soldi avevamo. Ma questa è una cosa brutta. Le forze dell'ordine ci hanno chiesto quanti soldi avevamo, ci hanno fatto vedere anche quanti soldi avevamo, che avevamo visto anche per un mese o 40 giorni per stare in Germania. Comunque è molto umiliante che trattare la gente in questo modo solo perché provengono da un paese di conflitto, un paese povero. More you see, the less you know, the less you find out as you go. I knew much more than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Lei prima diceva è molto diverso, l'limitazione della libertà personale che viviamo ora in Italia rispetto alle limitazioni in Palestina, com'è diverso la vita del carcere dalla vita che conduciamo bloccati in casa. Ed è vero, però le limitazioni in questo momento in Italia, lei come le sta vivendo? Le limitazioni le vivo in modo molto. No, non sono limitazioni come quelle che ho vissuto in Palestina, perché davvero sono diversi. E qui lì sai il tuo nemico, conosci il tuo nemico, è diversa. Magari anche ci sono posti di blocco, ci sono limitazioni nel movimento, tutto, però è sempre diverso. Oh! Lei è una chef, una blogger, poi magari ci racconterà dove poter andare per vedere le sue ricette, quello che viene pubblicato. E quindi in questo periodo, come noi, come tutti noi, ma forse più di noi, sta cucinando, no? Sì. Magari ci può consigliare qualcosa. Ci dobbiamo fermare brevemente perché c'è una piccola pausa, ma torniamo con lei tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornate ai figli di Enea, questa sera siamo con Fide Abuandia, una blogger, una chef palestinese che ha studiato a Padova, vive in questo momento a Padova ed è metà padovana, come dicevamo. Qual è, Fide, il piatto che in questo momento sta cucinando di più? In questo momento sto facendo tanto di più pasta fatta in casa, ecco, perché ho una bambina piccola, quindi fare il lavoro assieme così inganniamo il tempo, ecco. Dal punto di vista invece della blogger, che cosa sta attirando più l'attenzione di chi la segue? Io ho sempre parlato di ricette soprattutto palestinesi sul mio blog, sugli altri social tipo Instagram ho sempre quasi scritto più sulla cucina italiana perché scrivo in arabo e quando scrivo in italiano scrivo sulla cucina palestinese, quindi faccio questo scambio. Adesso a me non interessa tanto raccontare la ricetta o fare la ricetta perché ci sono tanti video, tanta gente che scrive ricette e a loro piace insegnare a fare da mangiare. A me piace più raccontare la cultura, il cibo nella letteratura, tutto quello che gira attorno a questa ricetta, le storie legate a questa ricetta. Qual è secondo lei allora la ricetta che rappresenta di più la Palestina? Ci sono degli alimenti che rappresentano la Palestina, ad esempio alimenti che magari vengono messi o fanno parte di alcune ricette, per esempio il sommaco, che è una spezia del colore rosso, del gusto acidolo, è una spezia molto caratterizza i piatti palestinesi. Poi abbiamo lo zaatar, che è un simbolo del legame tra il palestinese e la sua terra. Abbiamo tanti altri piatti che sono legati magari alle occasioni, agli eventi, alle feste. E invece, Fide, qual è il piatto che rappresenta di più secondo lei Padova oppure l'Italia? Mi piace tanto la polenta, che accompagnarla anche ai piatti, alla carne, al pollo. Ecco, questa è una delle cose che mi mancano quando sono lì. E poi ci sono dei prodotti che mi mancano quando sono in Palestina, ad esempio lo stracchino è una cosa che non trovo in Palestina, la mozzarella fresca. E bello dell'Italia che c'è molta diversità nella cucina e nella cultura. Lei innanzitutto com'è legata a Padova, perché vi ha studiato? Perché ho studiato, ho passato tanti anni belli nella mia vita, insomma, qui e continuo a tornare perché il legame non è mai stato spezzato, ecco, è rimasto sempre. Diceva che sua figlia parla meglio l'italiano che l'arabo. Sì, lo parla meglio perché parlo io sempre con lei in italiano, anche quando siamo in Palestina. E va in una scuola internazionale, quindi la prima lingua è l'inglese, e l'arabo lo fanno come seconda lingua, però adesso stiamo recuperando, ecco, tutti i giorni facciamo lezione di arabo. Sì, parla italiano, qualche parola in veneto anche adesso che siamo qui, sì, l'ho sentita dire alla bambola, e sveglia, no, canta Bauchi, sveglia macacchi. Non so, cioè, più merito di così. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story, about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up. Lei in Italia so che ha lavorato anche come volontaria per il carcere di Padova. Sì, attraverso una onlus italiana, si chiama Altra Città, ho lavorato per nel carcere due palazzi di Padova. Come traduttrice? Anche abbiamo tradotto tante cose, però all'inizio io l'ho fatto tanto. Dal 2009 ho iniziato fino al 2012, andavo sempre e lavoravo, facevo il volontariato nella biblioteca, quindi catalogavo i libri in arabo, compravo i libri in arabo e avevo anche il mio gruppo di lettura di detenuti che parlano arabo nel carcere, quindi avevo un appuntamento settimanale con un gruppo di ragazzi, leggevamo, discutevamo, leggevamo libri, articoli nei giornali. Era un progetto molto bello, insomma. In questo momento i carcerati vivono ancora di più una situazione di tensione, abbiamo visto alcune rivolte nelle carceri. Questo si sente nel carcere di Padova? Ma secondo me si sente la tensione in tutte le carceri, ecco, non perché togliere questa possibilità del alle persone di vedere, ai detenuti, di vedere i loro cari, è un po' crea tensione questo. Questa cosa del togliere questa possibilità è molto difficile e credo che tuttora non possono anche comunicare via i social o via Skype. Quindi un isolamento pesante. È pesante, sempre pesante essere isolati, indipendentemente del motivo. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line. Knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping that what you love. And you'll find that someday soon enough you will. Palestina, in questo momento come si sta vivendo l'emergenza coronavirus? Che notizie ha? Beh, seguo le notizie sempre, tutti i giorni. No, i casi non sono tanti, comunque credo che l'autorità palestinese abbia risposto in modo molto drastico anche a questa emergenza. C'è il lockdown anche in Palestina? Sì, sì, è uno stato di emergenza da 2 mesi, cioè o da 55 giorni, sì, quasi 2 mesi. Quindi una cosa simile alle misure che sono state prese in Italia? Una cosa simile alle misure che sono state prese in Italia in tanti paesi del mondo. E perché lì non ci sono le possibilità anche dal punto di vista sanitario e non in Palestina non si può permettersi, ecco, di non possono permettersi, no, vabbè, in Palestina non possono permettersi di avere tanti malati, di avere tanta gente negli ospedali perché non c'è la capacità e per fortuna anche che la popolazione palestinese è una popolazione giovane. E questo è un virus che colpisce tutti ma che ha effetti più letali sulle persone avanti con l'età. Eh sì, è questo, questa è la fortuna, ecco, della Palestina e di tanti paesi. Ma la risposta sanitaria è fragile, è debole. È debole, sì. In questo momento i palestinesi e gli israeliani, in questo momento di emergenza, stanno collaborando oppure questo è questa situazione di Covid-19 è fonte di ulteriori tensioni? Diciamo tutti diventeremo migliori, lo speriamo, lo auspichiamo. In questo momento si sta verificando questo miglioramento fra due popoli in lotta oppure questo esacerba ancora di più la tensione? Io non posso dire che non ci siano collaborazioni, però non posso dire che questo che il Covid-19 abbia creato un'atmosfera bella tra i palestinesi e gli israeliani, perché gli israeliani continuano a confiscare terre ai palestinesi, continuano ad andare nelle case dei palestinesi a prendere gente e metterla in carcere, continuano a ad avere 5.000 prigionieri politici palestinesi continuano ad avere 5.000 prigionieri palestinesi politici nelle loro carceri. Alcuni di loro sono anche malati. Quindi, se avesse creato un'atmosfera di buono, gli israeliani avrebbero dovuto magari rilasciare i prigionieri palestinesi, almeno coloro che sono malati, le donne, i bambini. Ci sono anche storie interessanti e affascinanti. C'è quella di Amiad Zaig, non so se lei l'ha letta, proprietario di una fabbrica di scarpe nella città di Hebron, quindi nella sua città, che aveva una fabbrica appunto che produceva calzature e ha deciso di riconvertirla nella fabbricazione di mascherine. E ora sta producendo, pare, anche per gli israeliani che chiedono forniture di mascherine. Ci sono storie di questo tipo anche? Sì, ci sono storie di questo tipo, ma sono state sempre. Questo Amjad Said, che sicuramente faceva calzature anche e le vendeva agli israeliani, poi mettevano la loro etichetta, le vendevano in giro per il mondo e dicevano che è made in Israel. E per me è una specie di anche sfruttamento. Non ho visto israeliani buoni che hanno detto: allora, perché abbiamo adesso un nemico in comune, e che cioè il virus, rilasciamo i prigionieri palestinesi, li mandiamo tutti a casa. Insomma, Fide, non si diventa più buoni, non si diventa peggiori, si rimane uguali. Si rimane uguali. Grazie a Fide Abuandia per essere stata con noi, chef, blogger. Se vuol dire dove possiamo vedere le ricette, la storia delle ricette palestinesi, fidafood.blogspot.com. Grazie Fide. Grazie a lei. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto di questa puntata. Vi diamo appuntamento con nuove storie di italiani di origine straniera sabato prossimo, sempre alle 21 su Radio 24. Buona serata e buona domenica da Valentina Furlanetto. Ciao.